diciamo partiamo dalle setole, meglio naturali o artificiali? Artificiali. Senza dubbio? Senza dubbio, perché sono fabbricate, dice, usiamo un termine molto semplice, la ricerca da parte delle case produttrici è talmente avanzata che il prodotto è assolutamente sicuro e idoneo all'uso. Quindi non dobbiamo avere dubbi. Il naturale non è sinonimo di migliore. Ciò che è prodotto, tra virgolette, artificialmente, cioè la setola artificiale, una setola ad alta tecnologia, quindi va benissimo. Andiamo alle variabili, morbide, medie o dure? Morbido, perché così la pulizia, diciamo, per quanto ognuno di noi voglia essere accurato, a volte fin troppo, non si traduca in un traumatismo. Cioè, se lo spazzolino, la setola è dura, può abradere sia la superficie dentale nella zona delicata del colletto, sia la gengiva vicina che lo ricopre, e quindi portarne una perdita. Essere bravi, essere efficaci, vuol dire anche essere delicati, non per questo meno scrupolosi. Dottoressa, anche la forma della testina può fare la differenza. Quanto deve essere grande? Lo spazzolino più è piccolo e meglio, va in tutti diciamo i recessi, ovunque nella bocca. La bocca è una piccola cavità, soprattutto i denti dietro, i più difficili da pulire, sono tra la lingua e le guance. Sì. Uno strumento ingombrante è uno strumento che può anche causare un rifiuto, un conato di vomito, una difficoltà, un dolore. È meglio piccolo. La tecnologia è intervenuta, infatti, a fianco dello spazzolino manuale abbiamo lo spazzolino elettrico. Le piace, dottoressa Fantoni? Lo consiglia? Io consiglio qualunque strumento poi si riveli efficace. È dal rapporto poi tra paziente, inteso appunto paziente odontoiatrico, col suo odontoiatro o il suo igienista, che il risultato dell'igiene condotta con spazzolino normale, con spazzolino elettrico, potrà essere testato. Quindi ognuno deve scegliere poi lo strumento con cui riesce a ottenere il miglior risultato. Sicuramente questo tipo di spazzolino è particolarmente indicato a chi ha problemi di manualità, quindi sia bambini, certo, che adulti, che anziani, che hanno avuto qualche problema con la muscolatura o con la motricità della mano. Dottoressa, in questa sorta di bigino dello spazzolino, fa anche rima, penserei ai bambini, anche per loro setole artificiali, medie e spazzolini piccoli? Spazzolini commisurati all'età, difatti oramai tutte le case produttrici differenziano gli spazzolini come dimensioni per età, diciamo dai 0,3. Dai 3 e 6, dai 6 e 12, addirittura c'è chi fa più spazzolini di dimensioni diverse. Ogni quanto si cambia lo spazzolino? Quando le setole? Ogni 3-4 mesi. Dottoressa Fantoni, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro buona giornata e buona spazzolatura. Grazie a voi. Buona giornata. Essere benessere. Grazie. Buona giornata. E dopo lo spazzolino è il momento del colluttorio. Un bello sciacquo ed ecco una bocca a prova di bacio. L'alito sicuramente ci guadagna, diventa molto profumato. Ecco perché molti di noi usano il colluttorio per risolvere un problema di alitosi. Ma è giusto? E nel caso, come scegliere il colluttorio a misura del nostro problema? Ne parliamo con il professor Weinstein, ordinario all'Università degli Studi di Milano e direttore della clinica odontoiatrica presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi. Professor Weinstein, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno. Professore, i colluttori, come aspetto, possono sembrare tutti uguali, ma in realtà ci sono delle differenze che io credo, ma me lo dica lei, valga la pena di conoscere per poter decidere eventualmente se e quale tipo utilizzare. Che dice? Sono d'accordissimo con lei. I colluttori possono essere divisi idealmente in tre grossi gruppi. Un gruppo che esplica degli effetti curativi, e questo si acquista in farmacia. Un gruppo che è un sostanzialmente un cosmetico, un qualche cosa che migliora l'alito dopo aver spazzolato i denti, e un gruppo anche di colluttori che sono potenzialmente dannosi per, perdoie che sono pure in vendita liberamente nei supermercati. Allora, questo aspetto, il colluttorio dannoso, mi ha già incuriosito. Perché sono dannosi e quali sono quelli dannosi? Allora, i colluttori potenzialmente dannosi sembrerebbe essere quelli che contengono elevate percentuali di alcol. Quindi bisogna leggere bene l'etichetta, professor Weinstein. E vedere di utilizzare colluttori che contengano o bassissimi contenuti di alcol. L'alcol viene utilizzato per sciogliere meglio i vari eccipienti che sono contenuti. E quindi questa è l'unica funzione. Però se il valore sale, raggiunge percentuali molto elevate, si può avere un rischio di danno, non un danno sicuro, ma un rischio di danno. Per tutti coloro che usano il colluttorio per profumare l'alite, quindi per combattere un problema di alitosi, lei che dice, una buona idea? Ci sono No, un'idea, è come utilizzare il profumo o il deodorante senza lavarsi. Sì. Sì, apparentemente si migliora il problema, ma il problema dell'alitosi è connesso con la presenza di gengivite, cioè di gengive infiammate, e la gengivite può essere contrastata solo con l'uso quotidiano dello spazzolino e del filo e con le visite periodiche dal dentista per ripulire la bocca. Senza considerare, professor Weinstein, almeno anche lo stomaco, no? Ad esempio molte persone che soffrono di reflusso, sì, gastroesofageo, possono avere problemi di alitosi. Certamente, quindi l'indicazione è la percentuale di pazienti che ha alitosi a seguito di patologie o dell'apparato digerente o dell'apparato respiratorio è molto piccola, mentre invece la causa prevalente di alitosi risiede in una cattiva igiene orale. Allora, o si utilizza un colluttorio specifico che contrasta i batteri che sono presenti nel cavo orale, ma che si aggiunge alle manovre di igiene orale, sì, oppure se utilizziamo un colluttorio molto profumato o uno di quelli a base di alcol, facciamo più danno che beneficio. Sì, sostanzialmente è come non lavarsi e mettersi il deodorante. Professore, grazie, le auguro una buona giornata. Anche a lei, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. E per oggi è tutto, noi ci sentiamo come sempre domani a partire dalle 11, non mancate, vi aspetto. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.